Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, buonasera da Blue Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che è in compagnia eccezionalmente questa sera di con Maurizio Calzavara. Avremo un artista straordinario padovano, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima alcuni dati informativi della radio, e dicevo, questa è la fascia oraria chiamata Rock Wave, che va in onda tutti i giorni dalle 22.30 alle 24. E Blue Radio Veneto ha un sito dove potete trovare tutte le varie notizie immaginabili possibili in inerenti a quello che facciamo noi in studio, ai live, alle notizie di cronaca e a tutto quello che può interessare per quanto riguarda recensioni nell'ambito appunto della musica. Il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423. E se ci volete invece raggiungere tramite un SMS, soprattutto per questa sera che abbiamo questo grande artista, vi ricordo il nostro numero che è il 346 23 20 033. Abbiamo due pagine su Facebook, uno appunto solamente della radio, dove trovate altre notizie, e poi abbiamo quello dedicato al rock, appunto chiamato Blue Radio Veneto Rock Wave, a cura di Alberto Prisco, che vi spiega tutte le varie notizie inerenti alla musica rock. Nel nostro sito potete ascoltarci in streaming, quindi in tutto il mondo, tramite www.blueradioveneto.it. C'è una finestrina, chiamiamolo rettangolino rosa, con scritto streaming. Sotto c'è una freccia piccolina nera, cliccando lì ascolterete la radio sempre e comunque 24 ore su 24. E poi, quando ci sono questi live eccezionali come quelli di questa sera, c'è anche la diretta con le webcam. Basta collegarsi nel sito diretta rockwave.tk e avrete la possibilità di vedere anche l'artista. Oppure, più semplicemente, andando nella recensione della radio, nel nostro sito, cliccando il nome dell'artista che stiamo per intervistare, c'è sotto, alla fine della recensione, c'è la scritta diretta streaming video. Cliccando lì si può vedere. Maurizio, buonasera. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Io sono molto contento di ospitare Luca. Abbiamo Luca Francioso. Luca Francioso, chiaramente. Lui è venuto sempre a trovarci all'uscita dei dischi, vero Luca? Sì, sì, è non so un quanti appuntamento... Quante volte sei venuto qua? Ma credo ormai 7-8 volte. 7-8 volte per presentare i dischi, per presentare l'evoluzione tua musicale. Sì. Che gli ascoltatori non lo sanno, ma lo posso dire chiaramente. Luca è un virtuoso del finger picking. Sì, finger picking. È un'arte un po' particolare, l'arte del finger picking. Ma è, in effetti è un modo di suonare la chitarra che ultimamente, devo dire, comincia a prendere anche un po' più di piede. Ho avuto una grossa divulgazione negli anni 70-80 attraverso di grandi musicisti americani. Esatto, ultimamente devo dire grazie anche ad artisti come Tommy Emmanuel, che certo, hanno fatto un po' innamorare la chitarra acustica a parecchi chitarristi elettrici, devo ecco, dire. Quello è importante. Il fingerstyle è una tecnica molto suggestiva della chitarra acustica che permette l'autonomia della chitarra acustica polifonica e ritmica, e quindi di vedere la chitarra acustica come una sorta di piccola orchestra che fa più voci contemporaneamente, imitando un po' il pianoforte, per capirci. Bello questa tua definizione di una piccola orchestra, molto sì, significativa. E in effetti poi il chitarrista è un piccolo direttore d'orchestra. Esattamente. Stasera Luca Francioso è venuto a trovarci per un motivo molto importante. È uscito da pochi giorni il suo nuovo disco che si chiama Il Segno, un disco che ha avuto una realizzazione un po' lunga, Luca, 5 anni di lavoro, ma 5 anni densi di lavoro. Ma guarda, è il modo in cui lavoro io, in effetti tutte le mie produzioni hanno un cantiere piuttosto lungo. Sì, perché dobbiamo dire una cosa, permette, che Luca non fa solo il chitarrista, cioè ha tante altre attività, scrittore, arrangiatore, fa teatro, fa un sacco di cose. Diciamo che mi piace moltissimo esprimermi attraverso più linguaggi possibili. Esattamente. E quindi ti dicevo, quando ho finito di lavorare a un progetto, in realtà in cantiere c'è già qualcosa di nuovo a cui sto già lavorando da tempo. E come tutti gli altri dischi, come tutte le altre produzioni, anche per il segno è successo così. Finito il disco L'altra pelle, che sì, è fatto con sei mani, che fra l'altro abbiamo presentato recentemente anche qui, certo, e c'erano già tracciati i sentieri di questo lavoro e ho continuato a camminarli fino a che è uscito, cioè il 18 dicembre dell'anno scorso. Sei mani è un'altra tua anima praticamente. Sì, è un regalo in realtà, è un regalo che mi faccio, perché per un musicista solista a volte manca un po' l'ensemble, esatto, lo sguardo complice sul palco, il condividere insomma l'esperienza musicale, l'esperienza anche compositiva. E quindi con i fratelli Piovan, Alessandro e Francesco, batteria e basso, ogni tanto, anche se in realtà non molto spesso, però ogni tanto abbiamo fatto un lavoro e lo portiamo in giro. Poi vi allargate anche, non diventano più sei mani, ma diventano molti 12. Di più, sì, sì, in effetti, collaboratori, le guest diciamo quasi ormai stabili, Jacopetti al sax e Chiara Luppi alla voce e Paolo Vidaic. E nel disco ha collaborato anche Domenico Calabro, grandissimo amico, grandissimo chitarrista, sì. Quando lo fate, tante mani, eh? Quando lo fate il prossimo concerto come sei mani? E guarda, proprio ad aprile, è stato confermato da poco, ad aprile, il 15 aprile al Circolo Carichi Sospesi di Padova. Allora ci sarà. Che hanno aperto da poco un bellissimo spazio teatrale. E alle 9:30. Bene, bene. Tienimi informato, Luca. Certo. Allora, Luca, il segno è il tuo decimo lavoro dopo 9 album e un live. Giusto? Sì, sì. Questo è una particolarità che mi è piaciuto subito. È suonato solo e esclusivamente con la chitarra. Sì. Perché? Guarda, in realtà è una particolarità strana per un solista di chitarra acustica affermare che il disco è solo di chitarra acustica. Ma perché io, come diceva Maurizio, amo anche la musica condivisa con altri musicisti. Quindi, essendo un solista, nei dischi, luoghi in cui è più facile far confluire, no, più artisti e più esperienze, e mi regalo le esperienze di duetti o comunque di ensemble e scelgo sempre questo modo di divulgare e poi di colorare la mia musica per 4-5 pezzi a disco, considerando che poi un disco circa mio ha 15 brani, certo, quindi un terzo del lavoro. Ecco, per questo lavoro invece ho preferito rimanere fedele a quello che poi propongo dal vivo, che poi è la mia natura, la mia vera pelle, quello del solista è solo sulle corde della mia chitarra, proprio perché è un album molto vicino a quello che io sono, anzi direi che è l'album che chiaramente in questo momento della mia vita fotografa perfettamente non solo la mia vita artistica ma anche la mia vita personale e le scelte che hanno portato che mi hanno portato su questa strada. Quindi possiamo dire con una metafora un album molto francescano. Sì, diciamo che cerca in qualche modo attraverso non solo le note, certo, ma anche attraverso le parole entrare in te stesso. Esatto, sì, entrare in me stesso per far conoscere, certo, poi quelle che sono state quella che è la mia storia, che sono state le scelte che mi hanno portato a fare il musicista e che tuttora tengono in piedi questa esigenza e questo mestiere. Certamente, stavolta hai scelto di contaminare meno, possiamo dire questo, sì, rispetto alle altre volte che hai molto contaminato nel senso positivo, che hai cercato, certo, nuove vie, nuovi orizzonti. Diciamo che le altre volte ho portato da fuori dentro, sì, adesso su questo disco da dentro ho cercato di portare molto fuori, e quindi era necessario, insomma, la realizzazione solo per chitarra acustica. Certo. Sentiamo, voglio sentirti da te. Lo so. Già ti ho sentito diverse volte in vari concerti, però insomma da vivo sei sempre uno spettacolo. Grazie. Anche perché tu la fai parlare quella chitarra. Grazie. come anche Domenico, se devo essere sincero. Dicevo, cosa ci fai ascoltare? Ma io partirei col brano che fa proprio da prologo a questo lavoro, si chiama Scrigni. Questo lavoro cerca di raccontare attraverso le note e le parole e il talento celato dentro ognuno di noi. E Scrigni è proprio l'inizio di questo percorso. Oh, yeah, yeah. Radio Veneto. Questa era Scrigni, la canzone che apre il disco. Siamo scrigni involucri, fragili, tesorieri ambulanti di rara capacità e libertà. Siamo le custodie naturali di uno slancio unico, un piccolo seme nascosto fra le intenzioni e le contraddizioni di cui siamo fatti. Questa è la tua apertura di questo splendido libro che trovate all'interno di questo CD. Bellissimo questa idea del libro, mi è piaciuto tantissimo, veramente Luca, è una grandissima idea quella di fare raccontare tutto il disco con questo libro, cioè uno si apre il libro, mette sul CD e leggendo ci sono le tue note, le tue canzoni. Beh, è un'esigenza nata dalla anche difficoltà che il disco, l'ascolto del disco a volte fa emergere, no? Certo. E non è un disco diretto, forse è il disco meno diretto dei dischi che ho fatto. E proprio perché c'era, diciamo, la voce cruda quasi della chitarra acustica sola, e mi è sembrato necessario dover aggiungere anche il linguaggio scritto, no? Per raccontare poi quello che è lo scopo primo di questo lavoro, cioè quello di raccontare il talento, diciamo il dono che c'è dentro ognuno di noi e verso il quale bisognerebbe tendere per essere finalmente se stessi realmente felici. Cioè. Il pezzo iniziale si chiama appunto Scrigno perché apri il tuo scrigno. praticamente, sì, aprire agli altri per poter recepire le loro sensazioni. A volte purtroppo non ci convinciamo di non esserlo. Pensiamo di non avere un dono, pensiamo di non avere un talento, a volte anche, devo dire, influenzati moltissimo dal di fuori, dai, no? Media, eccetera, sì. Anche delle persone che ci, certo, stanno vicino, e a volte tendiamo a non a minimizzare quelle che sono le nostre potenzialità. Invece io credo che bisognerebbe investirci e ottimizzarle proprio per arrivare ad essere quello che siamo davvero. Chiaro, chiaro. È praticamente il segno deve essere, vuole proprio mostrare come sei davvero. Sì, questa è l'intenzione. L'intenzione, sì, è quella là. E musicalmente hai iniziato nel classico, nella tua maniera, se mi hai consentito. Sì, questo, io credo che questo sia il mio linguaggio. È il tuo linguaggio, esattamente. Probabilmente non si sfugge a quello che... Anche se ma poi uno positivo, cerca... Certo. Anche se poi uno cerca di regalarsi sempre strade nuove, e quello che poi la tua natura rimane sempre indelebile. Dopo nel disco però le strade nuove ci sono, eh. Sì, è l'inizio, ci sono, che giustamente deve certo, iniziare così e poi si sviluppa. Certo, certo. È una tappa questo o un punto d'arrivo? Ah, sicuramente una tappa. Una tappa. Io il punto d'arrivo sinceramente non riesco a vederlo. Sai perché te lo dico? Perché Maurizio dice sempre che dopo il terzo disco, cioè l'artista raggiunge la maturità. Infatti 10 lui. Tu l'hai fatti 10. Due volte a maturità. Tre volte a maturità. Guarda, io devo essere sincero, sarei un dramma per qualsiasi produttore e per qualsiasi ufficio stampa, perché non sono molto istintivo e tendo a fare quello che sento nel momento in cui lo sento. Quindi non ho, nel momento in cui scelgo di fare un lavoro, non ho mai in testa i pensieri e le preoccupazioni che può avere appunto un produttore o un management che cerca di coordinare anche, insomma, l'aspetto pratico di questi lavori, no? Io non mi faccio domande relative al mio target, a chi ascolterà, io cerco di essere appunto a me stesso, proprio il tema del lavoro, di essere più genuino possibile e di non deludere quelle che sono le mie i miei desideri, le mie... Io non ti ho mai visto comunque diverso, tu sei sempre genuino così come sei. Il tentativo è quello, sì. Chiaramente non sempre ci si riesce, perché comunque insomma vivi in un contesto, vivi tra tanta gente e a volte le tentazioni sono molte, anche quelle di in qualche modo snaturare quello che sei, anche per fini non per forza, come dire, brutti, sì, ma sì, sì, a volte, certo, succede. Io cerco sempre di essere fedele a quello in cui credo, con le difficoltà di questa, insomma, di questo tentativo. E dobbiamo parlare di una persona importante ti ha aiutato notevolmente, Mauro Santinello. Ciao Mauro. Mauro Santinello, sì, anche da me un salutone a questi microfoni. Mauro Santinello è una persona che io ho incontrato nella mia, diciamo, mio percorso artistico, sì. Ed è stato davvero un incontro molto importante, avvenuto nel 2008. E abbiamo fatto, anche se sono passati solo 3 anni, tantissime cose assieme. E lui ormai mi conosce. Simbiosi. Sì, sì, c'è un forte feeling, sia personale sia artistico, sebbene poi ognuno abbia i propri gusti, abbia le proprie... Certo. Però lui sa come trattare il mio suono. Mauro Santinello è un fonico. Certo. E soprattutto è anche un musicista. E sa come trattare il mio suono e sa come trattare anche me in studio. Capito, chiaramente. e mi fa sentire a mio agio in un luogo in cui, devo essere sincero, sebbene io abbia fatto molte incisioni, in cui entro con molta difficoltà. C'è sempre tensione quando entri in studio. Sì, perché il microfonone che ti punta, sei da solo, non c'è condivisione diretta con nessuno. E poi parliamoci chiaro, il disco, per quanto sia un'esperienza meravigliosa, è un collage, sì, è il meglio di te, diciamo così. Però E questa cosa a volte mi mette a disagio. Certo. Io preferisco il live, preferisco l'errore, certo. L'emotività. Perché sei umano se fai l'errore. Quello, certo, assolutamente. E piuttosto che magari un accurato editing, certo. Anche se poi insomma si fa, lo fanno tutti, lo si fa in studio, si cerca di tendere alla perfezione, anche perché poi il disco rimane per sempre, no? Quindi certo. Si cerca di, come dire, di proporre il meglio di te. Però ecco, io sono più per il live, suonare davanti alle persone e creare condivisione. E credo che anche le persone siano d'accordo con te, nel senso che anche per loro, parlo certo. Dal punto di vista mio, quando ti vengo a sentire, veramente regali emozione, insomma. Insomma, quello è il tentativo. E quindi ascoltare il disco dal disco, diciamo, oppure ascoltare il disco dal palco, e dalla parte di qua, diciamo, da certo. Chi sta seduto e ti sente, sono veramente due cose diverse. E questo l'ho avverto anche io, capisci? Immagino. E quindi, ecco, Mauro riesce a mettermi a mio agio in quel posto dove questo manca. Cioè, infatti, la sala asettica di uno studio. Se certo. Posso dire una cosa inerente al discorso di Mauro, è che una cosa che ho notato subito, come dicevo il discorso del libretto, è anche proprio la pulizia che c'è del suono di questo CD. È veramente pulitissimo. Mauro ha fatto un lavoro strepitoso. Abbiamo parlato molto, essendo anche l'ennesimo lavoro fatto insieme, io ho chiesto proprio a lui la naturalezza, certo. Il suono il più vicino alla naturalezza di uno strumento chiaramente acustico qual è il mio, e l'impressione che doveva dare il disco che lo strumento fosse proprio in camera dell'ascoltatore, certo. E devo dire che Mauro, io credo ci sia riuscito, è riuscito a catturare il suono dello strumento in una maniera molto discreta, ecco, non si sentono grossi interventi, insomma, non è una cosa da poco. Qui gli ascoltatori sono tutti in camera, sono tutti pronti per sentirti. Okay. Cosa ci fai sentire adesso? Ma io proseguirei il cammino naturale del disco. La scaletta. Sì, e faccio sentire L'inganno, che è un brano che punta i riflettori su proprio l'inganno che viviamo. A volte se ne parlava prima, cioè quello di non essere scrigni, tesorieri di un dono, di un talento, di non essere quindi unici, perché veramente è quello che siamo, e quello di convincersi del contrario, e questo è proprio l'inganno. Thank you. Questo era l'inganno, praticamente. Vi ricordo che state ascoltando sempre Blu Radio Veneto, che stiamo presentando il disco nuovo, uscito un paio di mesi fa più o meno, giusto Luca? Di Luca Francioso, appunto si chiama Il Segno, e ci sta presentando queste perle, perché secondo me, io l'ho trovato, te lo giuro, te lo dico con il cuore in mano Luca, un disco bellissimo. Grazie, grazie davvero. Sai che te l'avevo già detto, sì, te lo dico. Grazie. Veramente. Grazie. Guarda, non nascondo che fa veramente piacere sentire che, insomma, il tuo lavoro, un lavoro cui stai lavorando tanto, da tanto tempo. Certo. E più che bello, brutto, bravo o meno, insomma, abbia in qualche modo si sia compiuta una condivisione con qualcuno, e quindi qualcuno abbia recepito la musica, si sia emozionato, insomma, è una cosa veramente che dà molta soddisfazione. Mi è piaciuto subito. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, vi ricordo, cioè, tramite SMS, se volete fare salutare o fare qualche domanda anche a Luca, ve lo ricordo il nostro numero di cellulare, quindi 346 23 20 0 33, se volete, così lui vi risponderà in diretta. Sei pronto a qualsiasi domanda. Parlando dell'inganno, che è il secondo pezzo della scaletta del disco, è un pezzo più movimentato, e il discorso dell'orchestra qua si fa in piccolino, perché questo battito leggero del dito sulla corda dà un senso di percussione. Sì, sì, è proprio questa tecnica percussiva piuttosto comune nella certo. tecnica del fingerstyle, che permette, insomma, di avere un piccolo pattern, esatto, e quindi un sostegno ritmico, e quindi di poter lavorare poi sulla melodia con più forza. Con, no? più forza, e poi lo lavori totalmente il pezzo, che alla fine giochi. Sì. Sì, giochi nel senso positivo, cioè certo. Vai oltre determinati canoni. Ma è la bellezza di questo di questa tecnica esecutiva, sono questi dettagli che mi hanno fatto innamorare di questo modo di suonare la chitarra, la possibilità, cioè, di essere e di reggere attraverso questi certo. Queste tecniche, di reggere solamente esatto. Con uno strumento, che insomma è molto gratificante. Diciamo ai nostri ascoltatori, non è facile reggere con uno strumento da solo davanti a un pubblico, è molto difficile. Sì, più difficile che non in una band, certo, interviene anche non solo la capacità tecnica dello strumentista, insomma, ma interviene anche un fattore emotivo fortissimo, esatto. Perché non ci si può nascondere assolutamente dietro niente, soprattutto poi, per esempio, in un ambiente come questo, come la radio, dove non ci sono proprio nessun tipo di effetti, no. Riverberi, cioè sei tu, il microfono e un pezzo di legno con delle corde, no? Certo. E questo anche in concerto, insomma, mette fortemente a nudo. È chiaro, cioè la difficoltà di fare una cosa di simile è risaputa. Suonare acustico è difficile, se poco da fare. È più semplice suonare elettrico, perché l'elettrico si può nascondere in ogni caso. Sì, sono due esperienze diverse. Però diciamo che ogni esperienza ha il suo insomma, le sue difficoltà, e quelle acustiche sono, diciamo, più facilmente avvertibili. Ecco, la gente sente subito se un accordo non è pieno, esatto, c'è qualcosa che non funziona. Sì, lo avverti subito, immediatamente. È crudo il discorso, certo. No? E quindi sì, insomma. E tu sei bravo a catturare l'attenzione di chi ti ascolta, devi fare. Questo album, Il Segno, dà questa percezione, secondo me. Deve catturare l'attenzione. Era l'intenzione iniziale, quella di creare attraverso le 12 canzoni, 12 brani. Sì, 12 momenti possiamo sì, dire. Sì, 12 momenti separati. Ma che facessero comunque parte di un unico percorso, e di tenere ancorato chi poi sceglie di ascoltarlo, il cuore, le orecchie sul disco. Anche perché un disco solo chitarra acustica, come un concerto solo per chitarra acustica, non è di facile recezione. No, è di difficile recezione. E quindi, insomma, c'è anche quello scalino da superare. La produzione tua, artistica? La produzione artistica è mia e di Mauro Santinello. Mentre la produzione, diciamo, energetica è di Claudio Signorini. Quindi un bel team. Sì, si è creato questo terzetto, soprattutto di amici. Quello è importante. Prima di tutto l'amicizia è stato il collante, e la stima reciproca. Ecco, quello è importante. E fondamentale. Chiaramente con queste caratteristiche si lavora meglio. Sì, si lavora meglio. Se non c'è questa, non ci sono queste caratteristiche, il rapporto è molto freddo, secondo me. Sì, e anche poi il risultato paga. È chiaro. Lo paga questo, questa difficoltà. Succede questo spesso queste cose qua. Di questo rapporto freddo e il risultato non è proprio come certo. Si poteva pensare. Beh, a me è capitato più di una volta e devo dire che alcuni lavori fatico anche ad ascoltarli per questo motivo. In realtà, invece, quando succede che una sinergia si riesca anche a trasmettere, no, nel lavoro, dopo anche il riascolto diventa anche un momento per ricordare quel collante che ha unito questo gruppo di lavoro. Ma il più sudato fra i 10 questo qua, secondo te, Luca? Il più sofferto fra i 10 che hai scritto, ma che penso hai pubblicato? Di sì, penso di sì. È difficile parlare sì, in degli modo... altri 9. No, ma anche in modo... oggettivo di un lavoro appena pubblicato, sì. No? Però io credo sì, è il più sudato e devo dire che anche se tecnicamente i pezzi sono diciamo non così diciamo ho suonato anche cose più difficili e in studio è stata veramente una rogna inciderli per tantissimi fattori anche perché affrontavo nuove tecniche, ecco. E a me conosciute da poco e anche sperimentate da poco. E poi è stato sudato soprattutto per il concetto, per anche il booklet, no? Anzi, il libretto. Esatto, lo scritto che accompagna i brani. Ci ho messo quasi 2 anni a scriverlo. È stato un lavoro di ricerca non indifferente dentro di me e soprattutto un lavoro di lealtà verso me stesso, nei confronti di me stesso. Cioè ho cercato di essere onesto soprattutto nei confronti di quello che stavo provando a divulgare. E come facevi? Scrivere prima la musica o i testi o prima i testi? No, è nato tutto come dire in modo parallelo. Ah, in modo parallelo, sì. Ho capito. Mentre scrivevo il testo nasceva la musica, a volte mentre scrivevo la musica nasceva il testo. Non c'è stata una priorità, e anche se devo dire che poi a lavoro finito così mi sembra che pesi quasi un po' più sul testo l'attenzione, no? E, però anche qui non riesco ad essere molto obiettivo. Però è stata una sinergia anche qui fra i 2 linguaggi che amo, e alla fine insomma il risultato è il segno. Facciamo un'ultima ipotesi, poi Agostino partirà con una canzone, presumo. Cosa sì, no, no, non parto io, parte lui. No, volevo... Oggi ho il play in mano di Agostino. Ma poi possiamo identificarlo, una volta si chiamava il concept album. Sì, assolutamente, è un concept album nel senso più genuino del termine. Ecco, esatto. È un percorso fatto di 12 brani e uno scritto che li collega e li anima in un certo senso. Una volta si usava a dire concept album, era bello dire concept album, hanno iniziato i Moody Blues tanti anni fa sì. E poi tutti gli altri li hanno seguiti, Beatles compresi con Sgt. Pepper. Quindi... Guarda, devo dirti la verità, quasi tutti i miei lavori, chi più chi meno, chi più con forza, chi con meno forza, sono dei concept album, quantomeno quello è stato sempre il tentativo, cioè quello di dare ai brani comunque un contesto e un percorso comune. E ci sono stati album più, come dire, che questo sì. Aspetto lo evidenziavano più, esatto, capito. E questo è uno di questi, assolutamente. Certo, certo, certo. Ok. Allora, se la logica dice che seguiamo la scaletta, come dicevo... faccio una precisazione, io dico scaletta, ma in realtà, cioè, ascoltiamo è totalmente dal vivo, quindi quello che sentite suonare non è scelto dal CD, ma proprio dal vivo. Luca Francioso sta suonando il suo disco qui completamente così, in acustico, live qui per i nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo momento. La voce un po' rauca di Agostino, mi è un po' emozionato. Agostino Folore con Maurizio Calzavara a intervistare Luca Francioso. C'ho una bellissima ragazza qui vicino a me, visto? Sei fortunato. Che non vuole mostrarsi. Ciao Luisa. Sei un graziato. Questa sera c'è una bella compagnia qui, c'è la Luisa che mi è venuta a trovare. E allora, Luca, cosa ci fai ascoltare? La terza traccia è i Cercatori d'Oro. Cercatori d'Oro. Chi sono? Chi I sono? Cercatori d'Oro sono tutte quelle persone che hanno questo impavido slancio di credere di essere degli scrigni, quindi di non essere vittima dell'inganno di non essere tesorieri di un dono unico, di un potenziale unico, e scelgono di investire la propria vita prima di tutto nella ricerca di questo potenziale, della natura di questo potenziale. E l'idea del cercatore d'oro che con il setaccio va a cercare pietruzze minuscole ma molto preziose è stata, insomma, l'idea base di questo brano. Comunque è una melodia dolce. I cercatori d'oro. Questo per farvi capire la dolcezza di questo disco, è veramente pazzesco quello che lui riesce a trasmettere con la sua chitarra. Luca, sei veramente molto emozionante. Grazie davvero. Per chi ama poi la chitarra, penso che sia una meraviglia sentirti suonare. Poi tu sei ormai veterano della chitarra, quindi... Beh, insomma, è un po' che sono in compagnia di questo strumento, devo dire che... Insomma, questi famosi suonarlo... 432 Hz. Qui tocchi un argomento, non credo che basti la trasmissione. Sì, ho scelto di incidere non solo questo disco, ma anche il disco precedente che è uscito... Ti interrompo un attimo, spieghiamo agli ignoranti come il sottoscritto cosa vuol dire 400... Sì, arrivavo proprio a questo, cioè, ho scelto di incidere questo disco e prima di chiudere gli occhi, che è il disco che è uscito qualche mese prima, che certo. È un disco di Ninne Nanne, a questa frequenza, cioè ad una frequenza 432 Hz, su cui io ho accordato la mia chitarra, ho sincronizzato le corde della mia chitarra su questa frequenza e non sui 440 Hz, che è la frequenza normale, diciamo mondiale, che si è scelta come unico riferimento, perché la 432 Hz è chiamata accordatura naturale, mentre la accordatura a 440 Hz viene chiamata accordatura disarmonica. E diciamo che risulterebbe lungo spiegare tecnicamente il tutto, però diciamo a grandi linee, per fare una sintesi brutale di questo argomento, la 440 Hz è una frequenza che si è scelta in modo arbitrario nel 1953 per unificare il corista, cioè il diapason, e quindi per permettere a tutti i musicisti del mondo di suonare lo stesso sincronizzati sulla stessa frequenza, ma è stata una scelta del tutto arbitraria e secondo molti scienziati, anche italiani, e anche secondo Verdi, che già a fine dell'Ottocento si era battuto proprio per questa frequenza, non è una frequenza che parla, diciamo così, il linguaggio del mondo e dell'universo, cioè non parla quei numeri, non è sincronizzato su quei numeri che governano le leggi fisiche. E quindi va in battimento, cioè va in dissonanza, va in stonatura, per capirci, la musica suonata su questa frequenza, con quello che invece sono le frequenze che esistono in natura, soprattutto dentro di noi. Esiste una frequenza molto importante, presente in quasi tutte, insomma, le dinamiche del mondo, della natura, che è la frequenza di 8 Hz. Ecco, quindi suonare a 440 non manderebbe in risonanza tutti i multipli sotto multipli di 8 Hz. Che poi il problema non è il La a 440, ma è il Do. Cioè, una volta non si usava dammi il La, era il Do la nota di riferimento. Quindi un Do a 261 circa, che sarebbe il Do nella scala in cui il La è 440. E suonato così come lo suoniamo noi è un poco distante dal Do, che invece è 256 Hz, il Do sulla scala in cui La è 432, quindi è leggermente più basso, no? E quindi si crea dissonanza, cioè quando si suona in 440 non si manda in risonanza queste frequenze che esistono in natura, e quindi questo provocherebbe, secondo molti studiosi, provocherebbe stress, instabilità emotiva, addirittura. Quindi questo è quello che io non ho provato scientificamente su di me questi effetti, perché la 432 al contrario darebbe benessere proprio per la risonanza che, no? se ne trarrebbe. Ho scelto di credere in questa frequenza e di suonare ormai da 2 anni circa in questa sincronizzato su questa frequenza. Infatti ci hai posto anche un bollino sul disco che... sì è importante scriverlo per due motivi: uno, per divulgare questo modo di concepire la musica, e uno anche per dichiarare: attenzione, non sono calante, è stata una scelta. Chiaramente. Certo. Dobbiamo sottolineare questo è una cosa importante, che Luca ha spiegato in modo abbastanza semplice un concetto molto difficile, molto complicato. Sì, è stato complicato anche capirlo, devo essere sincero, anche perché poi i libri e i manuali di riferimento sono molto molto tecnici. È stato importante anche l'aiuto di un amico fisico, fra l'altro che ha lavorato a un cortometraggio, lui si chiama Paolo Ferro, è stato anche per poco tempo un mio allievo di chitarra, è un bravissimo musicista, e è stato anche, diciamo, regista e produttore di un lavoro, di un film che si chiama proprio 8 Hertz e che parla di questo tema. Perché c'è lo ostracismo allora da parte di tutti riguardo a questo modo di suonare? Ma guarda, non lo so, dovresti chiedere a chi fa ostracismo. Io, diciamo, è difficile puntare e credere sul nuovo. Se ne parlava anche prima della trasmissione, sì, certo. È molto difficile, soprattutto se vai a toccare quelle, quelle realtà, quelle dinamiche che sembrano essere, anche se molto giovani, certo. 1953, cioè, quindi è passato poco tempo, 60 anni, anche se molto giovani, sembrano radicate da sempre. Ho capito, ho capito. E poi c'è anche un dato oggettivo, cioè la difficoltà di abbandonare anche un sistema costruttivo. Ah, ho capito. Perché, per esempio, quando sono con Jacopo Jacopetti, certo, che si è citato prima, non posso suonare a 432, rischierei gravi lesioni. No, perché lo strumento, gli ottoni, i fiati, hanno bisogno. Hanno un range anche a volte più elevato. Certo. Molto spesso ho suonato col clarinettista quando avevo il duo, i Cani Arcani, Luca Francioso Duo, in 442, e quindi è molto difficile per loro. Okay. Però per strumenti come il nostro, la chitarra, sebbene in effetti poi ci siano delle cose costruttive che andrebbero sistemate, comunque un pianoforte, anche se con più tempo, si può scordare e si può arrivare a 432. Agostino, c'è un mondo tutto intorno, dice noi Mattia molto tempo sì, fa, sì, sì, però certo, un mondo molto particolare. Adesso scopriamo grazie a Luca. Che certo. Luca, c'ho una busta qua, mi passi il tagliacarte? temo che non l'abbiano capita. Spiegala. Allora, il prossimo brano si chiama Il tagliacarte. Ed è un brano che... forse è stato il brano insieme a Falsi riflessi, che viene dopo nella scaletta del disco, è stato il brano più difficile da comporre, perché racconta il mondo, un mondo molto delicato, che è il mondo della scuola, più che della scuola, della didattica e dell'insegnamento. Io affermo con forza, a volte anche apparendo presuntuoso, che... per arrivare a essere realmente felici bisogna investire la propria vita sul nostro talento, che io credo sia il nostro scopo, fondamentalmente. Invece il mondo didattico, e quando parlo di mondo didattico non mi riferisco solo alla scuola, ma non puntando il dito, e la mia è una critica, mi auguro, costruttiva, non voglio colpevolizzare, dare colpa a nessuno, anche perché sono anch'io insegnante di strumento, quindi... E la scuola, ma anche a volte la famiglia, e parlo anche da papà, ho due figli, quindi non facciamo che tagliare con il nostro tagliacarte i sogni altrui, perché li riteniamo poco pragmatici, e li riteniamo come dire, superflui e poco produttivi. In realtà non c'è niente di più produttivo che ottimizzare se stesso, non c'è niente di più solidale, di salvifico, io credo, chiaramente, io credo. E questo brano, Il tagliacarte, cerca di raccontare questa difficoltà, la difficoltà di difendersi anche, no? Da questo. Le percussioni che sentite sono le mani di Luca che battono sulla chitarra, perché c'è anche questa movimentata canzone che comunque comincia piano piano. Blu Radio Veneto. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Thank you. Fischia tutto qua. No, forse sono io che ho fatto fischiare tutto. Allora, Luca, tu hai fatto anche un film, un DVD. Sì, è un'altra di quelle cose molto ambiziose che all'inizio di un progetto uno si prefigge e spesso non si arriva a vederne, insomma, no, i frutti. Invece questa volta, grazie anche all'aiuto di persone non solo competenti ma anche di grandissima umanità e disponibilità, insomma belle persone, saporite, non so come dire, e si è riuscito a fare questo. È un film, abbiamo pensato che il miglior modo per presentare il segno era l'idea di fare un film o un piccolo cortometraggio, insomma. E se non sbaglio è il mio omonimo che ti ha... Esatto, ho incontrato prima Paolo Canova, che è la voce ufficiale dell'Osservatorio di Padova. Sì. E con il quale al quale ho presentato il progetto, lui è subito, come dire, si è subito mostrato entusiasta e ha tirato dentro con grande slancio Agostino Nalon. Prima. Ciao Agostino. Ciao a tutti, ciao Agostino. Anche a te. Ho nominato Agostino e si è materializzato nella voce. Ciao Ago. Ciao, ciao carissimo Luca. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Ti hanno coinvolto anche a te in questa cosa alla fine. Sì, infatti ben volentieri, insomma. Quindi vi ho ascoltato, è stato emozionante sentire i brani, quindi ancora viva l'emozione, insomma. Grazie, grazie Ago. Ecco, dicevo, Agostino è stato, diciamo, Agostino Nalon esatto. Regista teatrale, già comunque molto attivo nel territorio del Veneto, insomma. Mm-hmm. È stato, diciamo, l'ideatore, il regista teatrale, ecco. Mm-hmm. Ideatore insieme a me, insieme a Paolo, e insieme a Massimo Povoleri, l'altra persona che abbiamo coinvolto, dello spettacolo di presentazione che si è svolto il 18 dicembre al Teatro Don Bosco di Padova. In pratica 12 cortometraggi che hanno... e che hanno introdotto i 12 pezzi ed è arrivato ad essere un film concerto, io così l'ho chiamato perché questa era l'impressione. Come è stato questo attore, Agostino? Beh, questo attore è un attore che ha molta, molta grinta, per cui corre forte e quindi bisogna un po' seguirlo a volte. Però è stato un bel incontro, nel senso che, come diceva prima Luca, questa realizzazione si è basata fondamentalmente su rapporti di amicizia, su persone che hanno voluto mettersi in gioco prima di tutto per questo legame, insomma, che ci ha uniti, insomma, ecco. Per cui sì, citerei proprio anche nella realizzazione anche Andrea Moretti, che ci ha dato una mano, e gli altri con i quali, insomma, abbiamo cercato di sviluppare così anche in un tempo relativamente breve, insomma, la realizzazione di questi corti che in qualche modo fanno da commento ai brani che Luca ha scritto, insomma. Sì, in effetti l'avrei citato anch'io dopo, con l'arrivo di Andrea Moretti, che è un personaggio di notevole talento creativo, e anche il lavoro di Agostino e di Massimo ha preso una direzione che era la direzione del disco, era la direzione del progetto. E devo dire che, rivedendo proprio questa sera, ho visto il master definitivo del DVD che uscirà l'8 aprile, in cui ci saranno anche appunto i video, devo dire che rivedendolo è stata veramente una fortissima emozione, perché sai, quando sei dentro a un progetto e poi lo vedi fuori ti accorgi realmente della portata, e sono davvero felice di questo. È un grande attore, c'è niente da fare. Hai bisogno di un attore? Lo dice anche mia moglie. Agostino, hai bisogno di un attore? Eccoci qua, sì. Pronti? No, mi offro io volentieri. Ti lanciamo tutti. Sì, comunque, ecco, sì, la cosa è stata interessante anche perché c'era una componente sperimentale, diciamo, non da poco, nel senso che diciamo questa alternanza, no, di brani musicali molto particolari, come stiamo sentendo, e quindi l'avvicinamento di immagini e i testi recitati, no, da un attore, quindi da Filippo Tognazzo, che quindi tutta questa cosa doveva stare in qualche modo in una forma di armonia che potesse arrivare al pubblico in qualcosa di unitario, in qualcosa di fluido, in qualcosa che desse, come dire, unità, ma soprattutto forza a quello che era il senso che Luca in qualche modo dava a questo lavoro, insomma. Quindi era anche un po', fra virgolette, una scommessa quello di realizzare qualcosa che appunto centrasse questo. Era stata una scommessa vinta, dai, Ago. Ecco, ok. Quindi il pubblico sì, ha apprezzato, quindi... È stata una bella serata, che, sì. Credo che poi l'8 aprile, in questa prossima replica che faremo, avremo questa possibilità ulteriore di... Esatto. Di Dead the Ring. Ecco, è il telefono. Agostino, mi senti? Sì, sì, ti sento bene. Benissimo. Adesso. Sì, è stata forse la difficoltà maggiore. Esattamente. Di cui parlava Agostino, cioè quella di uniformare tutti questi linguaggi. Certo. E farli viaggiare verso un'unica direzione. E devo dire che grazie al lavoro di queste persone questa difficoltà è stata superata. E la dimostrazione è stata anche la reazione, insomma, l'apprezzamento della gente, del pubblico, sì, il feedback, devo dire inaspettato, certo. Devo essere molto sincero, e che mi ha reso veramente felice, come dicevo all'inizio, è bello e gratificante sentirsi dire che qualcosa su cui hai insomma sudato, sì, sì, poi abbia emozionato qualcuno. Certo, sono d'accordo con te. Sì, quindi un progetto, questo è un progetto interessantissimo. Ha un'attinenza con un progetto che si usava una volta dal cinema muto, cioè praticamente l'immagine con l'orchestra che suonava? Chiedo scusa, c'è un problema tecnico. Sì. Chi ci sta ascoltando ha il volume della radio troppo alta, quindi fischia tutto per quello. Ah, ok, ok. No, dicevo Agostino, non so se mi hai sentito, c'era un'attinenza con le vecchie cose che si facevano una volta in teatro, cioè praticamente andava il cortometraggio, il filmato e l'orchestra suonava. Ma credo abbia diciamo più attinenza con quelli che sono i linguaggi moderni dell'utilizzo dell'immagine, nel senso che in questo caso la musica viene dopo, no? nel senso che c'è l'immagine e su questa immagine c'è la voce recitata che in qualche modo racconta e parla dei testi che sono i testi che sono all'interno di quel libro che tu hai citato. Certo. Ecco, quindi in questo senso sì, è qualcosa di nuovo, diciamo, ecco, forse. Sì, ho capito. Agostino, assieme a te chi c'era che ti ha dato la mano? C'era anche Massimo? Beh, allora Massimo Povoleri è un grandissimo amico, un bravissimo videomaker. Ma lo sai che ti sta ascoltando? Ma dai, sì, lo so perché. Massimo, ci sei? Sì, ciao a tutti, buonasera. Ciao Massimo. Un saluto a Luca, Agostino. Ciao Massimo. Che sono con noi questa sera. Chiedo scusa per qualche problema tecnico, ma c'erano questi. No, beh, siamo abituati ai problemi tecnici. Quindi. Sembra strano, ma questo salotto che si è creato telefonicamente era reale, vivido ieri sera, quindi mi sembra. Sì. E non mi hai chiamato, però. Sì, infatti. È vero, è vero. No, questo è un po' il filo conduttore probabilmente di tutta questa, di questo progetto, di questa situazione, no? Che alla fine si è un po' basato sulla condivisione, oltre che delle emozioni, anche del tempo, no? Perché poi è stata una cosa che comunque ci ha coinvolto fin dall'inizio, Agostino, Paolo, quando siamo stati appunto contattati così e abbiamo cominciato a immergerci, no? A cercare di capire un po' quale fosse la direzione di questa cosa e alla fine ci siamo resi conto che comunque la condivisione e lo stare assieme è stato comunque come dire, la chiave fondamentale per riuscire ad arrivare a chiudere il cerchio e a portare così in scena, tra virgolette, un progetto definitivo, insomma. Devo dire anche che, lo dico pubblicamente, bisogna anche come dire, apprezzare la pazienza che hanno avuto sia Massimo, sia Agostino, Andrea, Paolo, insomma tutte le persone che hanno lavorato con me questo progetto che va avanti da maggio dell'anno scorso, insomma. Secondo me, dal punto di vista proprio di fattura, no? Certo, di fattura pratica. Certo. No, stavo dicendo, secondo me non stai dicendo la verità, perché tu sei una persona talmente calma che credo non abbiano avuto... Ma è difficile, chiedi conferma, è difficile lavorare con me. Sì. Agostino e Massimo, forse posso dirlo. No, beh, devo dire che è stata una sfida, nel senso che, come diceva Agostino Nalon prima, alla fine ogni volta, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, il mio modo di lavorare, ma credo, perché conosco ormai Agostino da tanto tempo, abbiamo già condiviso un sacco di progetti e quindi ci unisce una condivisione di punti di vista molto forte, ma è stato un po' doversi, come dire, calare in una situazione diversa, no? Allora questo ti porta ogni volta comunque a cercare di dare il massimo, anche quando pensi di forse, come dire, non essere accordato correttamente, come diceva Luca prima, parlando dei 4.32, no? Quindi questo ti porta comunque a spingerti sempre oltre a quelli che pensi che magari siano dei tuoi limiti, no? Allora il discorso di condividere tutto ti porta alla fine a dire, però caspita, insomma, alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di interessante, speriamo che il messaggio arrivi anche a chi alla fine mette sul lettore CD questo progetto o chi lo guarderà alla televisione. O... Io senz'altro. Sì. Sì, infatti volevo aggiungere proprio una cosa su questa scia, no? All'inizio Luca ha detto, io quando parto con un progetto non penso, no? Non sono il manager, o comunque non guardo gli aspetti pratici, no? Programmatici. In effetti questo è stato un po' anche la spinta con cui questo progetto si è sviluppato, e in qualche modo noi abbiamo cominciato a conoscere Luca, insomma. Certo. Nel senso che l'idea è la cosa motore, no? Poi sul come realizzarla bisogna fare un po' i conti con la realtà, ma bene o male poi comunque si riesce a trovare a volte delle risorse che magari inizialmente non le vedevi. E questa è stata una cosa, diciamo, che ci ha portato sempre un pochettino più avanti, fino anche alla realizzazione, per dire, non so, del DVD, per esempio, ecco. Sì. Bene. Allora, io a nome di tutta Blu Radio Veneto ringrazio sia Agostino che anche Massimo di questa disponibilità nel salutare e di presentare questo DVD che uscirà. È stato un piacere, devo dire, partecipare, quindi assolutamente. Noi ci vedremo a qualche concerto di Luca. Benissimo, magari l'8 aprile, visto che presentiamo il DVD. Porte aperte. Ok. Bene. Ok, grazie a tutti voi e ci sentiamo presto. Ciao Agostino, grazie, ciao Massimo. Ciao Luca, grazie a tutti. Ciao. Allora, Agostino, tu presenti adesso, stai attento. Cosa dici? Visto che abbiamo adesso poco facciamo tempo, mi fa un bis. Facciamo suonare, cioè, una doppietta mi fa. Assolutamente Luca. Che traccia adesso tocca Luca? Allora, adesso vi faccio sentire Nella Terra e poi Subito dal Fuoco. Un flash della terra. È il mio brano preferito, che è molto folk, secondo me. Lo amo particolarmente, adesso me lo fai sentire dal vivo. Quindi. Ma sono due brani molto legati. Nella Terra incita a seminare nella terra il proprio seme, il proprio talento, il proprio scopo. E Dal Fuoco invece è un inno alla scelta e alla voglia forte di dire no alla fortuna, cioè non credo nella fortuna, ma credo nella scelta, nelle scegliere le cose. Ecco. Una cosa veloce, questa è la voce di Agostino, assieme a Maurizio stiamo presentando il disco nuovo di Luca Francioso, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente, in questo momento preferita, dicevo, 88700, 94600 sono le frequenze in modulazione, appunto, di frequenza, e questa è la voce, anzi, il suono della chitarra di Luca Francioso. ti devi preparare un attimino. Sì, tutto dal vivo, tutto dal vivo si prepara, siamo si accorda, live. Tutto dal vivo, questa è una trasmissione assolutamente live. È una cosa da sottolineare che Luca sta presentando tutti dal vivo i pezzi, nessuno, finora non abbiamo sentito nessun pezzo da disco, quindi è una cosa molto positiva, di molto, molto feeling. E quindi c'è un po' di difficoltà ovviamente, ma è il bello della diretta, Maurizio. Sì, esatto, però le corde hanno la temperatura, vero Luca? Sì, sì, si scordano leggermente. Poi questo brano che è dal fuoco è in un'altra accordatura, quindi ho dovuto accordare. Esatto, ok, sono pronto. Bene. Ok, vai, vai, vai pure. Che bellezza, eh? Bravissimo, è stato bravissimo. Grazie. Ha dato due diverse versioni, cioè un pezzo folk con una certa apertura, e l'altro pezzo, il secondo pezzo dedicato al fuoco, era più divertente nel senso positivo del termine, più accattivante, meno complesso dell'altro, anche forse nascostamente meno complesso, ma non assolutamente vero. È stato in effetti il pezzo che secondo me come dire, fotografa meglio quello che volevo dire. Ho capito. È anche un tango passionale. Sì, è passionale, quindi, sì. Sì, forse il pezzo anche più romantico, ecco, se vogliamo. Siamo così. Nel senso vero, vero e profondo del termine. A proposito di romanticismo, di romantico, cioè, è prevista nella scaletta tua Cuore amante? Ma io direi che, visto il... La fai magari chiusura. La possiamo chiudere con... Sì, come preferisci. Ma posso farti un'altra richiesta? Prego. Che non ha niente a che vedere con il segno. Prego. Ho scoperto che io e Luisa abbiamo una canzone in comune che ci piace tantissimo. Mi fai un 30 secondi di effimera? Devo prendere il plettro. Vado a prendere il plettro. Ok, mi assento un attimo allora. Adesso basta. Luca si muove. Sì, questa è una canzone che lui la presenta sempre in una maniera particolare nei suoi concerti, perché narra la storia di come dire, di degli insetti particolari che adesso Luca ci spiegherà esattamente. Sono quelli non che... ho sentito cosa ho detto, ma sono degli insetti particolari, stavo dicendo. Sì. Sì, ormai è una storia che racconto spessissimo ai concerti. Due secondi. Ma è la storia di questo insetto effimera, che è il nome proprio dell'insetto, sì, sì, sì. Mayfly in inglese, che passa tutta la vita sotto forma di larva in questi fiumiciattoli e laghetti comuni, e poi quando è sessualmente maturo ha pochissime ore, un po' la cenerentola, diciamo così, degli insetti, per trovare la femmina e morire. Ma la femmina non si dà con tanta facilità, nonostante insomma anche lei abbia poco tempo, ma va conquistata con questa danza nuziale, che è tipica poi del regno animale. Certo. E effimera è l'ambizioso tentativo di dare musica a questa. Sì, okay. Sì, fai un pezzettino solo. Ha dedicato a Luisa allora, che gli piace tanto, come è sottoscritto, va bene? Va bene. Un po' paccheggiato, quasi un punk, possiamo dire così. Pacchettone acustico. Esattamente. Due cose tecniche, Luca, prima sì. di salutarci. Allora, intanto dove si trova il disco, dove si può acquistare? Allora, io sono un umilissimo sottoboschista e quindi... Chiedetelo a me. Il disco... ha una distribuzione prevalentemente online, sia nella mia casa, nel sito della casa discografica, che è fingerpicking.net, nel mio sito chiaramente lucafrancioso.com, e nel sito che ho aperto proprio perché questo progetto è un po' impegnativo anche dal punto di vista della recezione, non è molto diretto, e ho aperto un sito che si chiama ilsegno.info, dove si può... dove anche tu hai, Agostino, hai, come dire, dato la tua impronta attraverso un'intervista che proprio tu mi hai fatto e che è stata pubblicata lì. E grazie, in questi siti ne approfitto, scusa, grazie per avermi invitato. È stato un piacere. E, insomma, in questi siti si può reperire il disco e in realtà tutto quello che il progetto ha sposato, cioè la musica, quindi il disco, lo spartito per chi ha voglia di suonare, quindi la tablatura, le note, e il DVD, quindi le immagini, che saranno disponibili l'8 aprile, anche se c'è già un'anteprima sul segno.info, e poi, visto che l'era, come dire, della divulgazione è molto ampia, anche un'app, un'applicazione per l'ormai noto e utilizzato in larga scala iPhone, e quindi si può vivere anche col multitouch, diciamo così, l'esperienza del segno. Benissimo. Dobbiamo ringraziare una persona, Agostino, siamo dimenticati, il nostro direttore artistico, certo, che è Alberto Pisco, che praticamente organizza tutti i nostri concerti. Lo ringrazio anch'io, visto che ha postato sul mio Facebook lo streaming. Esattamente, che ha sistemato. È sempre pronto, sai, queste cose ci tiene molto. Ciao Alberto. Allora, 23:53, abbiamo 7-8 minuti, Maurizio. Sì, circa, adesso dobbiamo finire. Facciamo due canzoni, ce la fai? Quindi. Due? Sì, penso di sì. Allora, fai una canzone. Al limite il jingle ci taglierà, non c'è problema. Ti faccio andare subito, ci fai una canzone e poi magari ci salutiamo con Cuore Amante o con cosa. Va bene, va bene con Cuore Amante, ci salutiamo con Cuore Amante. Allora, adesso cosa ci fai? Allora, vi faccio sentire il dono, visto che siamo partiti con l'epilogo, finiamo col prologo, e cioè che solamente prendendo coscienza del valore collettivo, benefico, collettivo, del nostro talento, allora ottimizzare il nostro talento, inseguire il nostro scopo, non diventa un doveroso riconoscimento al nostro potenziale, ma un atto d'amore, un atto d'amore verso tutti, un atto solidale, salvifico, io aggiungo con forza, verso tutti. Questo è il dono. Un dono d'amore. Luca Francioso. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Saluti finali per questa presentazione del disco nuovo di Luca Francioso, 12 tracce, 12 momenti colorati accarezzati dal suono delle tue mani, Luca, sulle corde, dal tuo grandissimo talento che non perdi mai la voglia di scoprire e scoprirsi. Non hai paura di metterti a nudo, dai sempre molto risalto al tuo modo di suonare, quel fantastico strumento che hai lì abbracciato. E non perdi mai di vista il gusto dell'ascoltatore. Grazie. Dobbiamo dire una cosa molto importante, che si è messo a nudo Luca Francioso in un famoso mensile musicale rock estremo. È stato intervistato e ha dato ben 2 pagine e mezzo di intervista, quindi una cosa molto rara per il giornale suddetto, che possiamo anche citarlo, è Rockerilla praticamente. Sì. Ha fatto un bel articolo su Luca, è una cosa importante per un giornale assolutamente rock e rock di tendenza. È stata una grandissima soddisfazione, un grandissimo onore anche poter insomma essere intervistato da Mario Giovannini, che è un giornalista veramente esperto soprattutto di musica acustica, essendo anche lui un chitarrista acustico, e essere insomma tra le pagine di Rockerilla, insomma già il nome stesso mi intimorisce. Non è acoustic guitar o chitarra, insomma è Rockerilla, quindi insomma per me è stato davvero un grande piacere. Sì, assolutamente. Oltretutto questo mese è stata dedicata a 2 pagine e mezzo di intervista. Il mese precedente hanno recensito il disco, certo. È stato una grande cosa. Una grande cosa. Hanno aperto le porte. Sì. Le porte si sono aperte. Chissà che entri. Esattamente. Ancora però, qualcun altro. Lasciami dire che comunque te lo meriti. Cioè, non è che sei lì per caso. Sei lì perché ti hanno ascoltato, sanno chi sei. E hanno apprezzato quello che fai, insomma, e quello che hai fatto nei lavori precedenti, insomma. Ostino, dopo questa intervista devo offrirti qualcosa? Perché... No. No, lo sai, io sono sempre... So che sei sincero, ecco, bravo, molto... Te l'ho sempre detto. Grazie. Che sono sincero, insomma. Però hai fatto, secondo me, hai fatto veramente... Non perché voglio mettere in secondo piano gli altri lavori, però secondo me questo è uno dei più belli della tua produzione. Mi rende felice, insomma, questo veramente questo mi è piaciuto. Grazie. Adesso poi sentiranno gli ascoltatori la canzone finale, Cuore Amante, che è dolcezza pura. Io che amo poi la musica dolce, quella che sai che ti entra dentro nell'anima, no? Quella che le suoni e proprio e ti entra, ti apre il cuore in una maniera splendida. Questa è una canzone che mi ha lasciato subito a bocca aperta. Cosa ci vuoi fare? Ho fatto male. Nulla. Ti porta a chiudere gli occhi e a sognare, come dico sempre io. È una canzone veramente molto, molto bella. Luca, siamo alla fine. Io vi ringrazio, ragazzi. Per me mi sento davvero a casa, lo voglio dire pubblicamente. Sì. Mi sento davvero a casa quando vengo a Blu Radio. E, insomma, ormai non so quante settima, ottava volta che ci vediamo. Io vi ringrazio veramente di cuore, anche per avermi dato la possibilità di divulgare questo lavoro. Ogni volta che hai un progetto, le porte di Rockway o di Blu Radio Sera, quando ci sono divisioni, sono sempre aperte per Luca Francioso. Grazie. Allora, ancora grazie, dicevo, a Luca Francioso, grazie a te Maurizio, grazie a tutti gli ascoltatori che sono stati. Posso fare come gli ospiti un po' più un saluto, posso certo, fare? Certo, un certo. Saluto alla mia famiglia, che non so se adesso mia moglie sta ascoltando, forse non ha retto perché la bambina è piccola, ha 5 mesi, quindi però voglio ringraziare e salutare Novella, mia moglie, e mio figlio Simone che ha quasi 4 anni e mia figlia Veronica che ne ha 5 mesi. Insomma, se poi nascono queste cose, anche grazie al loro silenzio, alla loro pazienza, e, insomma, li mando un bacio. E apro una piccola parentesi, Simone ha nel DNA il sangue di Luca, perché se tu lo vedi suonare la batteria o cosa suona adesso? È un personaggio, è un personaggio. Io mi ricordo una sera, 2 secondi, una sera che era un tuo concerto, a un certo punto c'era vivendo una canzone, nel silenzio si sentiva una nota di una chitarra. Era un ukulele. Tutti si girano, che era il figlio di Luca Francioso che suonava quella chitarra. Sembrava una cosa fatta apposta, in realtà vi giuro che non ho assolutamente influenzato con... Va bene, noi chiudiamo qui. Agostino Spolore vi dà l'appuntamento a giovedì prossimo con Valentina Amore, con speciale carnevale. Valentina Amore è un personaggio dei Summertime che ci verrà Diciamo Maurizio o no? No, non diciamo. Non diciamo. Una sorpresa, in maschera. In maschera. Tenete presente che appunto è un giovedì di carnevale, quindi la trasmissione sarà molto, ma molto, ma molto allegra. C'è questo personaggio assieme a una band, una piccola band, che hanno fatto, fanno questo, questa cosa in acustico qui, giusto anche per allegrare un po' le nostre serate, insomma. Non solamente rock, ma anche qualcos'altro. Devo solo ricordare che mercoledì, cioè il giorno prima, ci saranno i Sur, che è un gruppo di Bologna straordinario, con una cantante che ama molto il jazz, Luca, molto vicina al jazz, un disco molto importante, un gruppo decisamente interessante. Ma Rockaway, ci sono sempre gruppi importanti, interessanti, c'è poco da fare. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao a tutti quanti, ciao, Agostino, grazie, grazie davvero. E alla prossima. Alla prossima. Luca Francioso, cuore amante. Blu Radio Veneto.